se ce la vestiti, va. Ciao. tassino. Ah, va bene, questo qua, io a Puglia. Questo è un signor Barracchino. Stava parlando, quando stava parlando, lui non si passava. veduto, attendi, la superiore l'acceso e vedrai che ti rinfresca tutto lì. vista. Go ahead.